Ah, io sono uno che quando mi arrabbio, ma poi mi passa subito. Io se devo dire una cosa la dico, non sono mica un ipocrita. Allora, io credo che se per ora il mondo non è ancora esploso è perché fortunatamente non tutti sono di quelli che dicono sempre quello che pensano. E se le famiglie restano in piedi, credo che sia perché qualcuno decide di lasciare andare, di non ritornare su quella cosa. E se butti un piatto per terra, poi gli puoi anche chiedere scusa, ma difficilmente riuscirai a ricomporlo uguale a prima. Come quel ragazzo che aveva proprio un brutto carattere, suo padre gli disse di piantare un chiodo nello steccato ogni volta che avesse litigato con qualcuno. Il primo giorno piantò 37 chiodi. Poi piano piano riuscì a piantarne qualcuno di meno, finché un giorno andò tutto contento da suo padre, dicendogli: "Guarda papà, oggi non ho piantato neanche un chiodo." "Bravo," gli disse il papà. "Allora adesso fai così: per ogni giorno che non litigherai e non perderai la pazienza con nessuno, vieni qui dallo steccato e togli un chiodo." I giorni passarono e finalmente il figlio riuscì a togliere uno dopo l'altro tutti i chiodi. E alla fine chiamò il papà e gli disse: "Guarda papà, sono riuscito a togliere tutti i chiodi dallo steccato." "Sei stato bravo," gli disse il padre, "ti sei comportato bene, ma guarda quanti buchi sono rimasti nello steccato. Lo steccato non sarà più come prima." C'è un bellissimo video che si intitola "Intervista a Dio", vi lascio il link in descrizione, poi andatelo a vedere. In questo video Dio dice: "Vorrei tanto che gli uomini imparassero che ci vogliono pochi secondi a volte per scavare profonde ferite nell'animo delle persone che si amano e a volte ci vogliono anni perché queste ferite si sanino." Io sono uno che anche se si arrabbia poi, io sono uno che se devo dire una cosa la dico. Non lo so, non dico che ci riesco sempre, ma io vorrei tanto cercare di essere una persona che prima di dire una cosa, magari conta fino a 10, per cercare di piantare qualche chiodo in meno e magari piantare qualche fiore in più.